alla mia sedia vedo questo pezzo di cielo. Di cielo? Di cielo? Di cielo? Pezzo di cielo, è solitudine, è perpetuare, c'è solitudine, esiste cerchio, c'è solitudine, esiste cerchio, oh, oh, oh, oh. Solo ad essere vivi si sperimenta il contrasto che fanno i colori di ogni nostro momento. Senza sole.